fortunate novelle, il re m'invia nunzio felice, o oh principessa, ed io... No, pugno termino! Sì, ascolta, intorno già impazienti... Il vincitor si tiene! Tutto dirò, già impazienti intorno le turbe spettatrici... Che io non cerco questo da te! Ma in ordine distinto... Che vinse, dimmi sol! Licida ha vinto! Licida? Appunto! Il principe di Creta! Sì, che giunse poc'anzi a queste arene! Sventurato ristera, come l'argento! Oh, te felice! Oh, quale sposo ti diè la sorte! Oh, Alessandro, parti! T'attende il re! Parti, verrò! T'attende nel gran tempio adunata! E parti ancora! Che ricompensa ingrata!